24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina, e noi vogliamo elettori il bagno alla turca. Ricordiamo che sono sempre 55 le settimane, settimana decisiva in corso, la 55esima per la riforma elettorale e per l'abolizione delle province. Ricordatevelo, cari italiani. E allora, che giornata oggi, che giornata speciale. Che giornata speciale, devo subito convocare, no, saluto subito Miriam Lucchetti, se no poi mi dimentico, in redazione, saluto Peter Bescapè in regia e convoco subito all'appello la nostra straordinaria Paoletta Saluzzi. Saluzzi, ascoltatori! È il compleanno, 30 anni splendidamente portati! Alessandro caro, 30 anni più 20 di esperienza. È un giorno fantastico! Più 20 di esperienza, è fantastica! Grande Paoletta, questa... buongiorno a tutti. Come sai, per le occasioni clamorose noi abbiamo anche l'augurio, insomma, di una persona speciale, una persona, eccola qui. Tanti auguri da questo ragazzo un po' stagionato, ma con il cuore sempre giovane. Eccolo. Va bene, è festa, ragazzi. È festa. Oltretutto quest'anno cade di mercoledì, voi capite, a tutti i nostri ascoltatori del mercoledì, che poi sono quelli del lunedì, del martedì, perché a Lido Milan si segue tutta la settimana. Sì. Ma sarà anche una bella botta di fortuna. Che capiti il mercoledì. Guarda, intanto ti faccio fare gli auguri anche dal nostro direttore Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Luca, buongiorno. Auguri Paola, buongiorno. Ti sarà ricordato. Buongiorno direttore, no? Grazie. Certo. Ti ricordo. Non era poi più 20 di esperienza, di cui 20 di esperienza. Ah, grazie, Cadini, grande signore. Vabbè. Beh, ragazzi, io la Nutella non è male come tuo. Io la... Vabbè, la Nutella li ha fatti due giorni fa, i suoi primi 50, adesso siamo in due. Sei nata con la Nutella. E qui subito via SMS. Allora, Paola Saluzzi è nata con la Nutella. Potete sbizzarrirvi al 3492 al 349-238-6666. Mandatemi l'augurio più originale per Paola Saluzzi. Paola, gliel'hai servita sul piatto d'argento. E io lo girerò e lo leggerò in onda. Siate sobri, cari ascoltatori. Va bene. Sono 50 anni di Paola Saluzzi e va bene, apriamo il Parlamento, dai, oggi Parlamento in festa, allora, champagne offerto ovviamente. Ovviamente, sempre Nicole Minetti paghiamo noi. Per Paola Saluzzi e Luca Dini abbiamo detto. Allora, carissimi, vi piace questa bella campagna elettorale? Oggi, direttore, sei citato sul giornale, è perché... Sai, forse puoi immaginare anche il motivo, sono andati a rispolverare un'intervista di Vanity Fair, te la ricordi? Puoi immaginare quale, un anno fa più o meno, Beppe Grillo, la vicenda del passato. Allora iniziamo da qui. Berlusconi ieri da Mirta Merlino si è lanciato in questo pacato giudizio su Beppe Grillo. Con colpa ha fatto morire, ha ucciso tre amici, è entrato dentro una strada dove c'era un cartello che avvisava strada impraticabile, lastre di ghiaccio, e lui è riuscito a uscire dalla sua auto che è precipitata e sono morte tre persone. È stato condannato per omicidio plurimo colposo a 14 mesi e quindi è un pregiudicato, è un assassino e quindi di prigione la scampata non dovrebbe tornare su argomenti del genere. Insomma, pregiudicato e assassino. Caro Luca Dini, oggi il giornale rispolvera l'intervista che solo Vanity Fair ha fatto quando era un anno fa, era anche lì sotto elezioni, più o meno. Infatti ci furono delle polemiche clamorose alla figlia delle vittime di quell'incidente. Allora, caro Luca, la palla a te, come si suol dire. Ma che dire, sapevo che Vanity Fair in abbonamento arrivava un po' tardi, però un anno dopo non pensavo. Trovo il tempismo, molto sospetto, voglio dire, perché se ne accorgono adesso di questa cosa qua, che peraltro era già nota. La trovo un po' infelice, cioè io dico la storia è quella, poi ridurla e riassumerla come l'ha fatta Berlusconi, come ha fatto Berlusconi, francamente. Dice un po' troppo. Diciamo che si potrebbero riassumere in modo altrettanto brutale certe vicende che riguardano lui. Però ricordo, e ricorderai meglio di me, che ci furono molte polemiche anche nei tuoi confronti, nei confronti di Vanity Fair, perché anche allora si stava per votare, si disse come mai venne fuori questa intervista proprio nel momento. L'intervista però venne fuori proprio in quel momento perché la ragazza, la donna, protagonista di questa storia, vedendo citato Grillo dappertutto, decise che voleva parlare in quel momento, e io non avrei trovato onestamente ipocrita tenere la storia in frigorifero in nome di una par condicio che peraltro non applico e non mi riguarda e in cui non credo, perché secondo me esiste una cosa che come ti abbraccerei, solo che invece qui vige la par condicio, qui fa, quindi adesso subito Paola Saluzzi deve subito riequilibrare d'oro. Mi ha fatto molto sorridere, Vanity Fair in abbonamento arriva un po' dopo, però probabilmente Vanity Fair è arrivato su tutti un anno prima e non ci sono dubbi, è la battaglia senza esclusione di colpi. Certo. Questo rientra, questo sì, nella norma e nella logica delle ultime ore, ultime bordate, proprio come le battaglie navali di una volta, no? Dove puntare, sì, colpito affondato, cercare di puntare fuoco e quindi ognuno colpisce nel modo che ritiene il più appropriato, non sempre il più giusto, ma si attacca da tutte le parti, cioè, ecco, non voglio fare par condicio da questo punto di vista, ma si attacca da tutte le parti, veramente si attacca da tutte le parti e in tutti i modi, che insomma. Tira fastidio, direttore, che volevi dire? No, mi fa spiego, è significativo perché un anno fa erano le politiche e questa storia non venne utilizzata. Cioè, si capisce che la posta in gioco questa volta è altissima, perché per le europee viene ritirata fuori. Sì, in fondo sì, le europee dovrebbero essere una cosa, diciamo, una campagna teoricamente più civile. Sì, oddio, e poi bisognerebbe parlare di Europa. Vabbè, ma questo ormai l'abbiamo sviscerato, non gliene frega niente a nessuno dell'Europa. A me ha colpito questa cosa, cara Paola, te la giro a te. Sappi che secondo Repubblica un terzo degli italiani fino a 10 giorni fa non sapeva neanche che domenica si va a votare per le europee. Ma di cosa stiamo parlando? Ma posso che dire una cosa, lo faccio di rado perché sembra noi facciamo. Abbiamo una bravissima corrispondente a Bruxelles, si chiama Giovanna Pancheri, ci ha proposto, e ovviamente noi abbiamo sposato, ci mancherebbe altro, la proposta, perché era interessantissima. Noi stiamo battendo sul chiodo dell'Europa ogni santo giorno con una mezz'ora in cui raccontiamo l'occupazione, cosa vuol dire in Europa, fare lavoro e formazione sin dai tempi della scuola media, cosa vuol dire in Europa. Tema per tema parliamo di Europa, no, ma fai, figurati, alle nostre anche noi questo, perché ma lo so. No, ma certo, noi facciamo parte di Euronet, figurati, sono un gruppo di radio europee, no? Chiunque faccia informazione lo fa, sì, c'è anche gente che lo sa fare in maniera splendida, quindi tanto di cappello a voi. E perché se no di europee, cioè di concetto di Europa, non si è capito niente. No, ma infatti è così. Allora, devo dire, per ora vince, vabbè, la Nutella non mi piace, la Saluzzi sì, questo... Oppure la Saluzzi è nata con la Nutella, sarà sempre buona e bella, e vabbè, Nicola da Milano... Ma finora, Sergio da Lecce, auguri Saluzzi, solo tu mi attizzi. Effettivamente questo è un po' Sergio da Lecce, per ora vince, ma anche David da Roma, cara Paola, buon compleanno, ti auguro di trovare un uomo come me, te lo meriti. È meraviglioso, wow. È uno molto sostenuto, questo Davide da Roma, molto sostenuto. Vabbè, insomma, quindi si dice, questo è un po' troppo, cioè l'idea, insomma, assassino. Più Europa e meno polemiche. Lo so, ma le polemiche ci sono, ormai pare il derby Renzi-Grillo, Grillo ha risposto è un povero uomo a Berlusconi, a questo, però ecco, mi inquieta anche questo, Casaleggio oggi sul Fatto Quotidiano fa un'intervista, due pagine, a Marco Travaglio, dice, perché no fare il ministro io? E anche Beppe Grillo, tu Luca Dini te lo vedi ministro Beppe Grillo, dove lo piazzeresti? Non saprei. Effettivamente, più magari capo, così, consigliere, ma Beppe Grillo ministro. Tu Paola Saluzzi, non so, l'agricoltura, all'agricoltura, perché l'agricoltura? Così, all'agricoltura, insomma. Paola, tu te lo vedresti? Ai lavori pubblici. Vabbè. Ma vogliamo sentire ancora Berlusconi con Mirta Merlino che gli chiede quanto... Ecco, la domanda sui fagiolini, no? Arrivavano ovviamente, il costo di 80 euro al chilo dei fagiolini. Le faccio vedere cosa rappresentano per lei, secondo alcuni, gli 80 euro. Guardi. No, scusi. Questi... che non, sono non un chilo niente. Di fagiolini. Se lo ricorda che la sua fidanzata disse che lei, quando arrivò nella sua casa, trovò che questo chilo di fagiolini costava la bellezza di 80. Io l'ho pagato 3 euro, per dirle la differenza tra quanto lo pagavano a casa sua e quanto è quotato sul mercato. È assolutamente fuori dal contesto questa cosa, perché io so benissimo che 80 euro possono essere una cosa importante per chi ha introiti così bassi. Vabbè, insomma, poi pare che abbia aggiunto anche cose da donne, insomma, ha capito Paola Saluzzi, va la spesa. No, cose da donne, intanto la Pascale è entrata e ha detto, ma chi fa la spesa? Scena stupenda, no? Chi fa la spesa? Dice, se non ricordo male, il frigorifero era pieno di crostacei, dice, ma lui non li mangia. No, a volte le donne servono e aiutano tanto, a volte, sempre. A risolvere, a capire come spendere meglio i soldi dentro una casa, insomma, no? Sono anche cose di donne, ma i fagiolini sono un tema. Anni fa si diceva ai politici Andreotti e compagni, lei sa quanto costa un litro di latte? È vero, è la classica domanda, per inchiodarli, esatto, è così. Comunque, devo dire, auguri alla Rossa di Fuoco e alla Mora Nazionale, entrambe squisite, la Mora Nazionale e la Nutella, questo è Massimo. Mi fate iniziare proprio. Massimo da Milano, Massimo da Milano, va bene, andiamo. C'è Roberto, dice, è nata con la Nutella come me, gli auguri a me. Roberto, auguri, cioè, se compie gli anni non è la stessa cosa, però poi cerchi di capire, però auguri Roberto. 24 mattino. Berlusconi mi ha un po' deluso, ha promesso la dentiera a chi non la può pagare, ma un uomo di mondo come lui, esperto e navigato, poteva pensare anche a regalare interventi di chirurgia plastica sino per le vecchiette come me. Ieri ho preso una multa. E adesso alla Corte Costituzionale di Strasburgo faccio ricorso. Ora io ho 40 anni. Quando ero bambino di politica si parlava al telegiornale e poi su Tribuna Politica, un programma che la gente appena iniziava Tribuna Politica si batteva le palle nei coglioni come fatta pazzi. Oggi a qualsiasi ora tu accendi la televisione c'è qualche politico lì che professa a destra e a manca. Poi, politico, secondo me è gente di spettacolo, perché ormai in Italia la politica è avan spettacolo. Caro signore Milan, te do una grande notizia. E siamo fatto lo partito della zappa, e siamo fatto lo congresso, e tu sei stato nominato per clamazione presidente, presidente Milan. Complimenti, che te vaccino via fuoco. Da Vespa aspettavamo fuoco e fiamme, ma si è risolto tutto in un bailamme. Con Grillo che fra il trucido e il faceto sembrava un lupo, sì, ma assai mansueto, e crea in tanti delle idee strambe. Un Grillo con la coda fra le gambe. Ciao Neda, felice Pontasso. Ciao, ciao, ciao, ma è tornato. Oh, ma sempre ma il mercoledì. Ma presidente, ma questa è la notizia. Sono presidente del partito della zappa. Vabbè, ma straordinario, straordinario. Che ti possino piglia fuoco anche a te, caro, caro ascoltatore, caro Angelino, caro contadino. Vabbè, qua allora, come detto, censuro alcuni auguri, che insomma la Nutella, vabbè, li censuriamo, però auguri, però anche questo della sua rima baciata, auguri cara Paola Saluzzi, vorrei festeggiare con te su un divano Natuzzi, Roberto, Roberto, Roberto da Bari, insomma, da Bari, da Bari, non era, non era una pubblicità, questa la mia non era pubblicità. Chi c'è? Vabbè, insomma, sì, lo champagne. Vabbè, posso dare un bacio anche a Miriam Lucchetti e al Super Alpino, perché oramai siamo diventati un gruppo unico, insomma, voi capite, con il direttore, mega direttore Lucadini, con il presidente Alino Milan, siamo i leoni del mercoledì. È chiaro, è chiaro, è chiaro. Leoni e leonesse. Allora, vi volevo sottoporre, ogni tanto sapete che sulle scuole e sui bambini succedono delle notizie un po' bizzarre. L'ultima viene da Pomezia, dove è apparso il doppio menù in classe, ne scrive oggi Repubblica, vedremo in rassegna stampa. Allora, il doppio menù in classe è questo: se paghi, se i genitori pagano 4 euro, niente dolce ai bambini, se paghi 4,44 euro, dolce ai bambini. Io quando leggo queste cose non lo so perché capisco, capisco tutto, i conti, le amministrazioni comunali, le robe, però insomma, no? C'è il bambino, te lo immagini il bambino a 6 anni, tu c'è il dolce, no? Sfigato, con tuo papà non l'ha pagato. Accelerata, non hanno 0,44? Sì. Vorrei capire su che cosa si spendono inutilmente 0,44. Non lo so. No? Magari aggiungerli, fare il dolce sociale. Sì, esatto, ma non lo so. Spende. In modo, una volta si portava il grembiule tutti quanti per essere tutti quanti uguali, pensate un po'. Magari questo è anche sbagliato, non lo so, però questo certamente mi ha colpito. Luca Dini, te che dici? In faccia a chi ha avuto questa bellissima idea, cioè è una cosa talmente diseducativa che non so, io una volta si diceva voglio vedere rotolare una testa, io la vorrei vedere onestamente. Attenzione. Se fai quel mestiere lì non puoi fare queste cose. No, ma effettivamente per 0,40 claro. 0,44 centesimi, questo è. Però io voglio dire, visto che abbiamo glorificato Paola Saluzzi, io voglio come dire, rimirarmi un po' anche la copertina di Vanity Fair, che oggi siamo in edicola, siamo già davanti alle c'era Peter Bescapè che me la voleva rubare oggi, ma insomma c'è Scarlett Johansson, che Peter Bescapè fa insomma, no. Caro Luca, perché però i francesi lo fanno meglio? Questa cosa mi ha fatto un po' arrabbiare, l'orgoglio italiano. È una cosa abbastanza semplice, no, lei è una Scarlett Johansson, è fidanzata e aspetta un bambino da un giornalista francese, quindi... Ah. Che miseria. Rosicate pure. Rosicate, colleghi rosicate. E niente, per questo, insomma, chiaramente per lei è così. Per lei è così. Perché non ha ancora provato gli italiani. Beh, è chiaro, è ovvio. Era lì che volevamo. Che trizzicolino che mai. Era lì che volevamo arrivare. Va bene. No, comunque. C'è... Sì, vabbè, insomma, ormai siamo. Questa è la copertina di Vanity Fair con tanti servizi ovviamente all'interno. Alle 15 di che parli, Paola Saluzzi, del tuo compleanno? No. Allora parlo del mio compleanno, diamo delle ricette di cucina. Sì, e poi andiamo a esplorare il modo nell'ultimo blocco per dimagrire prima dell'estate. Sarebbe mica la politica, la trita e ritrita politica. Ma perché ti viene in mente che parleremo di politica? No, ma chi lo so? Non capisco. Va bene, vi devo salutare, grazie, auguri ancora Paoletta. Tanti auguri a chi tanti amanti ha. Tanti auguri in campagna ed in città. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Siamo qui alle 7:16 minuti, cari ascoltatori, cari amici miei, cari debosciati d'Italia, ancora rallentati nei vostri movimenti. Prima di iniziare questa lunga giornata, noi invece siamo qua già attivi da ore, pronti per voi, con affetto a leggervi i giornali, a raccontarvi che succede in Italia in questa campagna elettorale con gli ultimi scampoli, dove ci manca solo veramente che stirino le coltellate aspettandosi dietro i comizi, alla fine magari nel dietro le quinte, così zac, una coltellata. No, per carità. Però insomma a volte feriscono anche più le parole e il livello è di scontro totale. Ma noi parleremo di cosa? Intanto avremo ospite Piero Fassino, sindaco di Torino, nonché presidente dei sindaci dell'ANCI, alle 8:45, per cercare di capire che succede con questa benedetta TASI, la tassa, di cui parleremo anche in rassegna stampa. Poi la vicenda della sanità e dei manager nominati dalla sanità, i dirigenti della sanità. Ieri c'è stato l'arresto del presidente del Consiglio regionale della Campania, perché l'accusa era concussione, l'accusa è quella di aver fatto pressioni per mettere persone in una ASL. È un gran classico, con tutto il garantismo del caso, con inchieste che spuntano come funghi d'ottobre, quando riguardano il tema sanità e rapporti con la politica. Non è il caso, se ne discute vanamente da anni, che la politica la smetta di nominare i manager e che vengano scelti manager con altri criteri che non siano quelli della nomina della politica. Ne discutiamo alle 8:15, avremo ospite l'ex ministro della salute Renato Balduzzi e Fabio Tonacci, che è un collega di Repubblica, ha scritto il libro La mangiatoia sulla sanità, e l'accostamento tra le due parole fa capire il senso del libro. Ora andiamo a leggere i giornali. In questo mercoledì 21 maggio i titoli, la TASI appunto è l'apertura per il Sole 24 Ore, casa, ecco i 1000 comuni dove si paga subito la TASI, mentre Libero, dove si paga la TASI a giugno, l'elenco dei 1076 comuni. Segnalo sull'Unità un'apertura con intervista al ministro dell'economia Padoan sul lavoro svolta in Europa, così dice il ministro. E poi la campagna elettorale, ormai mancano 3 giorni, poi potremo tirare un sospiro di sollievo, cari italiani. Votate, rischio populismi, così apre il Corriere della Sera e l'appello del presidente della Repubblica Napolitano. Per Repubblica Renzi sfida Grillo, vincerò il derby, il governo non rischia. La Stampa, fra Grillo e Berlusconi, le europee degli insulti, rivoluzione, evasore, assassino. Il Messaggero, europee 7 milioni di indecisi, questi sarebbero gli italiani che non hanno ancora deciso se e per chi votare. Il Fatto Quotidiano apre con un'intervista a Casaleggio, piano inglese per Letta e Napolitano bis. 6 giorni prima delle presidenziali, l'ambasciata britannica chiese a May, Grillo, cosa pensassimo della rielezione del presidente e tentò di farci incontrare il futuro premier, così Casaleggio torna sull'idea dei complotti. Il giornale Vi dico io chi è Grillo, la superstite della strage provocata dal comico ed evocata da Berlusconi, ricorda in 30 anni mai una telefonata. Mentre queste sono le aperture, voglio partire però da un tema che riguarda la scuola. Ne abbiamo accennato poco fa in apertura di programma alle 6.30. È una vicenda che riguarda la città di Pomezia, che tra l'altro è un comune controllato dal uno dei pochi comuni controllati dal Movimento 5 Stelle. Il sindaco è Fabio Fucci. Ed è finito nella bufera per una decisione che in questi casi riguarda le mense scolastiche e suscita sempre dibattiti molto accesi. L'ultimo schiaffo, scrive Repubblica pagina 20, il dolce a pranzo per chi paga di più. Lo stesso titolo, più o meno, la vicenda la trovate in prima pagina sull'Unità, il titolo è questo: niente dolce ai bambini poveri. Il concetto è simile. La decisione è di dare un doppio menù in classe per i bambini. 4 euro, questo se pagano 4 euro i genitori, niente dolce al bambino. Se invece i genitori pagano 4,44 euro, dunque la differenza è di 44 centesimi, allora il bambino può avere il dolce. Caterina Pasolini su Repubblica: bambini che avranno il dolce, bambini che non lo avranno, ai quali non resterà che guardare i compagni gustarlo soddisfatti. Alunni di serie A e di serie B nella stessa classe, nelle stesse scuole materne ed elementari a Pomezia, divisi dalla ricchezza dei genitori, da quanto mamma e papà potranno pagare la mensa scolastica, che da settembre prevederà menù differenziati, completo, con dolce 4,44 euro, senza 4 euro. E scrive Repubblica: dopo i casi di Adro, Vigevano, altre scuole comunali da Vercelli a Mantova, con i ragazzini in aula a mordere il panino portato da casa perché i genitori non avevano potuto pagare la retta, ecco la nuova polemica che coinvolge i più piccoli in un'Italia divisa tra famiglie che faticano ad arrivare a fine mese e comuni che devono aumentare i prezzi dei servizi pubblici perché i soldi dallo Stato sono dimezzati. A scatenare l'ultima polemica sui tagli nella scuola, il bando di aggiudicazione nel servizio di refezione che prevede due menù differenziati dalla presenza del dolce. Il sindaco, travolto dalla protesta, si difende così: è stata una decisione presa coi genitori. Ma a polemizzare per esempio la vicepresidente del Senato Valeria Fedeli del PD, che dice: una scelta inaccettabile, ingiusta e discriminatoria. Anche sull'Unità appunto questa notizia viene messa così: mensa scolastica a 5 stelle a Pomezia in provincia di Roma, il dolce solo a chi paga di più. L'idea è del sindaco grillino Fucci: due menù e per chi non può versare la quota niente dessert. E tra l'altro fa sapere l'Unità a settembre aveva già raddoppiato le rette. D'altronde lo chiederò anche a Fassino, perché questo riguarda sempre la questione dei comuni, dei conti dei comuni, con cui bisogna ovviamente raccapezzarsi, però è chiaro che questa decisione può certamente far discutere, anzi fa molto molto discutere, e ci sono polemiche a Pomezia, e finisce anche sulla stampa nazionale. Altri conti e altre cifre che sono sbattute oggi da tutte le prime pagine dei giornali riguardano invece il Vaticano, lo IOR e il Cardinale Bertone. Leggo per esempio dal titolo del Corriere della Sera, ma ripeto, tutti i giornali hanno la notizia in prima pagina e dedicano almeno una pagina a questo: Bertone sottrasse 15 milioni allo IOR. Questa è l'accusa dalla quale peraltro il cardinale si difende, dicendo invece tutto regolare. La notizia è stata data dal giornale tedesco Bild e racconta Fiorenza Sarzalini a pagina 17 del Corriere: c'è un buco da 15 milioni di euro nei conti dello IOR, soldi che sarebbero stati utilizzati dal cardinal Tarcisio Bertone, quando era segretario di Stato Vaticano, per finanziare un affare del suo amico Ettore Bernabei, giornalista, produttore televisivo e presidente della Lux Vide. Per questo l'alto prelato è accusato di malversazione. L'operazione effettuata attraverso società e conti correnti esteri riguarda l'acquisto di quote della Lux ed è stata ricostruita dall'autorità di informazione finanziaria vaticana. Un'indagine che si intreccia con quella avviata dalla Procura di Roma sulla gestione dei depositi dello IOR e si concentra su quanto accaduto nel dicembre 2012. Questa è l'accusa, a dire tutto ciò sono soprattutto i giornali, come detto un giornale tedesco, è stata la Bild a lanciare questa notizia. E poi c'è stata la precisazione di padre Lombardi, cioè il portavoce vaticano, che esclude che si tratti di un'azione penale. Però chiaro, la Bild l'ha messa in grande risalto, Bertone giallo sui 15 milioni del Vaticano. Questo è il titolo anche del Messaggero, così come l'Unità, una perdita da 15 milioni mette nei guai Bertone, o il giornale Bertone nei guai per un prestito, secondo la Bild ha girato 15 milioni al produttore amico Bernabei, questa è l'accusa. A proposito di indagini, invece l'indagine che ha portato alle manette al presidente del nuovo centrodestra del Consiglio regionale della Campania, e tra l'altro candidato alle europee, quindi si pone anche un problema non indifferente, cioè come trattare questa vicenda. Noi partiremo da qui perché l'accusa al momento dell'arresto a Paolo Romano è quello appunto di avere fatto pressioni, e quindi le accuse sono turbativa d'asta, concussione, diffamazione. Le pressioni, fare pressioni per mettere persone fidate all'ASL, avrebbe fatto pressioni e intimidazione al direttore generale dell'ASL di Caserta Paolo Menduni per inserire persone di sua fiducia, addirittura far revocare chi non aveva avuto il suo placet. Tra le varie intercettazioni racconta Repubblica c'è anche quella al telefono: come ti sei permesso di mettere quella nel mio distretto, in una conversazione captata dagli uomini del colonnello Gaetano, senatore della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Arrestato il candidato NCD, tra l'altro c'è la polemica proprio perché è candidato, e allora il coordinatore del nuovo centrodestra Gaetano Quagliariello, intervistato da Alberto D'Argenio su Repubblica a pagina 6, dice: cacceremo dal partito tutti quelli che commettono reati. Se vogliamo essere il nuovo centrodestra dobbiamo produrre una svolta politica e culturale. Non rinunciamo al garantismo, al diritto alla difesa, alla dignità della persona, ma contemporaneamente dobbiamo dire che tutto questo non significa impunità. Dobbiamo restare un partito aperto, impedendo di essere colonizzati dall'interno. Per la verità poi D'Argenio chiede, ma insomma non sono pochi gli indagati, per esempio Luigi Grillo, arrestato per l'Expo, diceva che Alfano lo voleva come consigliere, mentre Sergio Cattozzo è nel direttivo del nuovo centrodestra. Risponde Quagliariello: sono stato capogruppo di Grillo nel PDL e il suo comportamento da parlamentare fu esemplare. Ora si conoscono altre vicende, ne prendo atto. Non so e non credo che Alfano lo volesse come consigliere. In ogni caso, non lo è. Su Cattozzo ho chiesto una relazione al partito regionale che riguardi anche i circoli e non faremo sconti. Beh, ma anche il ministro Lupi viene nominato nelle intercettazioni. Su Lupi siamo alle illazioni, alle millanterie, risponde Quagliariello. E infine, avete candidato Scopelliti, ex presidente della Calabria, già condannato in primo grado, risponde Quagliariello, e ha chiesto di essere sottoposto al giudizio degli elettori, un giudizio che non è in alcun modo sostitutivo di quello della magistratura. Anche questa è una svolta. Vabbè, si difende così Quagliariello dalle accuse dei vari problemi giudiziari all'interno nel centro del nuovo centrodestra. Ne parleremo alle 8.15, intanto dopo, cioè parleremo soprattutto del rapporto tra politica e sanità, tra politica e nomine, e intanto dopo la pubblicità ripartiremo da questa campagna elettorale in cui, come detto, non si risparmiano davvero i colpi, e gli insulti e gli epiteti e i colpi anche sotto la cintura. Don Alejandro Milan è il soro dell'informazione. Addirittura, va bene, cara ascoltatrice, grazie. Allora, devo dire che i giornali, a dimostrazione anche della loro freschezza d'attualità, ancora oggi dedicano tante pagine al faccia a faccia, di porta a porta, di 48 ore fa, a questo punto. tra Bruno Vespa e Beppe Grillo. Vespa entusiasta viene intervistato a pagina 4 del Corriere. Beppe cercava i voti del PD, dice: è stato un evento, quasi un replay di Berlusconi da Santoro. 4,3 milioni di ascoltatori con punte di 4,8 milioni. Abbiamo abbassato di 5 anni l'età media della fascia d'ascolto. Assistito un laureato maschio su due. Il pubblico giovanile, che in genere ci guarda poco, era molto presente, così come quello maturo. Insomma, gongola Vespa, che dice: per i malevoli è stato vespizzato Beppe Grillo, cioè anestetizzato. Grillo mi è parso tutt'altro che anestetizzato, anzi il contrario. Vabbè, insomma, Bruno Vespa. C'è anche un'intervista invece su Repubblica a Massimo Cacciari, che esamina perché quello di Grillo è stato un successo. Beppe ha capito che il web non basta, ma la sua ricetta è ancora un'avventura. Insomma, l'analisi della comunicazione di quello che è successo anche per la stampa. Duello Grillo-Vespa, tutti vincitori, commenti: chi ha vinto, chi è stato più bravo, chi ci guadagna. Libero lo mette addirittura in apertura a pagina 3: le battute di Beppe ora fanno ridere, ma ci seppelliranno, scrive Maurizio Belpietro, come la minaccia di fermare la TAV, l'Expo, garantire il reddito minimo, sicuri modi per affossare l'Italia. Questo per Libero. Vabbè, certo, ieri la frase più forte l'ha detta Silvio Berlusconi: assassino e pregiudicato ed evasore. Così Berlusconi ha definito Beppe Grillo per la vicenda di tantissimi anni fa, nella quale Beppe Grillo ebbe un incidente stradale, morirono 3 persone e per quello è stato condannato anche 14 mesi, omicidio colposo. Il giornale allora cosa fa? Ritira fuori l'intervista, l'unica concessa da Cristina, la figlia delle vittime di quell'incidente, che un anno fa a Vanity Fair concesse l'intervista senza farsi vedere in volto e dicendo ai giornalisti: ora però nessuno, vi prego, mi cerchi mai più dopo questa intervista. Infatti non parla al giornale, però il giornale mette in prima pagina il titolo "Vi dico io chi è Beppe" e ripropone alcuni stralci di quell'intervista di un anno fa a Vanity Fair con Paolo Bracalini. A pagina 4: Beppe lo conosco bene, ha ucciso la mia famiglia e non ha chiesto scusa. Così Cristina un anno fa a Vanity Fair. Vabbè, in questa campagna elettorale c'è anche questo, i colpi bassi, le accuse molto dure. C'è quello che è il derby, ormai lo definisce così Matteo Renzi, tra lui e Beppe Grillo. Secondo tra l'altro il Corriere della Sera e anche il Messaggero, Matteo Renzi ha lanciato una operazione in questi ultimi giorni, l'ha chiamata Operazione Argo. Avete presente il film con Ben Affleck, quello che ricostruisce come gli americani andarono a riprendere alcuni ostaggi che erano stati presi dopo l'assalto dell'ambasciata iraniana della rivoluzione iraniana? Ebbene, uno straordinario film peraltro. Ebbene, così racconta Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera: io e Filippo, che è Filippo Sensi, il capo della comunicazione, il portavoce di Renzi, abbiamo definito questa operazione Argo, come il film. Obiettivo: riprendersi i voti del PD, riprendere gli elettori del PD. E in questo lungo retroscena, che è un colloquio di Maria Teresa Meli con Matteo Renzi, eccolo qua: ci sono io, poi, che mi sto sbattendo come un pazzo, dice Renzi, mi stanco, mi diverto e sono convinto che ne usciremo bene. E riguardo a porta, dice Renzi al Corriere: secondo me Grillo non ha preso voti né li ha persi, magari chi ha visto solo uno spezzone di quella trasmissione può averlo trovato convincente, ma tutto sommato la sua è stata una prestazione senza infamia e senza lode. Io non sono preoccupato, so che non ci sarà nessun sorpasso del Movimento 5 Stelle, anzi il sorpasso lo faremo noi, visto che alle politiche erano loro il primo partito. Poi è chiaro, aggiunge Renzi, mi piacerebbe vedere il numero 3 davanti la percentuale del risultato del Partito Democratico domenica. Io sono fatto così, non mi accontento mai. Parte dunque l'operazione Argo. A proposito di voto, una cosa che veramente mi ha impressionato, questo dato viene dato da Repubblica. Secondo Repubblica e secondo alcuni sondaggi, un terzo degli italiani non sapeva neanche 10 giorni fa che domenica si va a votare. Ma vi rendete conto? Vi rendete conto il livello di ignoranza? un terzo degli italiani non sapeva che si andava a votare e secondo il Messaggero invece 7 milioni di italiani sono ancora indecisi a 4 giorni dal voto se andare a votare e soprattutto chi votare, tanto per cui c'è stato l'appello del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a dire andate a votare, poi ognuno la pensa come vuole, ma un terzo degli italiani che non sanno che si va a votare domenica davvero mi ha impressionato. Gian Roberto Casaleggio invece fa un'intervista concessa a Marco Travaglio di 2 intere pagine, pagina 4 e 5 del Fatto Quotidiano, quindi un'intervista molto molto lunga. Il titolo è questo: se vinciamo, io e Grillo pronti a fare i ministri. Questa forse è la notizia, come dire, più esplosiva. Andremmo al governo, io sceglierei per esempio, perché no, l'innovazione, e Grillo bisogna chiederglielo, ma io lo vedrei bene ministro. In questa lunghissima intervista Casaleggio parla di come ha conosciuto Grillo, dei rapporti anche del blog, di questa campagna elettorale dove si è parlato anche di Hitler. È una difesa verbale, dice Casaleggio, da chi gli dice che è come Hitler. Noi abbiamo postato il discorso all'umanità di Charlie Chaplin, anche lui era oltre Hitler. E sulla TV nessuna cantonata, essere andati da Vespa. TV e giornali penso abbiano poco da vivere. Le prime 7 emittenti italiane nel 2012 hanno perso 500 milioni di euro, quest'anno è possibile che scendano a 700 milioni, durano finché qualcuno le finanzia, la pubblicità emigra altrove, soprattutto in rete. Abbiamo cercato di evitare il talk show dove non è chiaro che di che si parla e vince chi strilla di più, infatti chiediamo di poter parlare di un tema preciso con persone mediamente competenti, altrimenti decliniamo. E comunque dice: io non sono mai andato e nessuno di noi è mai andato da Floris, questo è il motivo per cui fu espulsa tra l'altro Federica Salsi del Movimento 5 Stelle. Poi parla ancora di complotti, ricorda di quando fu invitato con Beppe Grillo all'ambasciata britannica, era il 10 aprile 2013, racconta Casaleggio, una settimana prima delle presidenziali, c'eravamo io, Grillo e 2 collaboratori, l'ambasciatore ci chiese di incontrare Enrico Letta, allora vice segretario del PD, che aspettava in un'altra stanza. Noi rifiutammo, allora ci divisero per pranzo, Letta sotto con l'ambasciatore, noi sopra. A un certo punto l'ambasciatore, al suo bacio destro, ci domandò: che ne pensate della rielezione di Napolitano? E 2 settimane dopo ci trovammo Napolitano rieletto e Letta presidente del Consiglio. È una prova, dice Casaleggio, della forte influenza che i governi stranieri hanno sulle scelte politiche italiane, non certo solo la Germania. Insomma, per andare al governo dovremo vincere le politiche in almeno 3 paesi al mondo. Esagera così, per paradosso, Casaleggio, intervistato dal Fatto Quotidiano. E vabbè, ma a proposito di complotti, a proposito di retroscena, a proposito di trame losche, Mauro Meazza, buongiorno, eccoci. Buongiorno Alessandro. Allora guarda, visto che la butti sul complotto, sì, retroscena, sì, cose oscure, allora vabbè, ovviamente la cosa più oscura, più popolare la in questo Tasi. Momento lo sai che è la Tasi, certo. Tra l'altro noi avremo Piero Fassino alle 8.45, ascoltalo, ascoltalo, è privilegiato, quindi ti fa lui il conto, io mi fa il conto sì, pur non essendo di Torino non mi fa il conto, ecco, gli snocciolo comune, gli snocciolo comune per comune, e lui dice i conti a tutti, questo è esatto, anche per gli ascoltatori, perché potrebbe essere interessante. Resto in linea allora dopo questo intervento, così mi faccio fare un conto anch'io. No, vabbè, guarda, io non so, perché in realtà se provassi a spiegare tutto quello che riassumiamo nelle pagine 2 e 3 di oggi, forse dovresti sottotitolarmi, però diciamo che non è semplice, anche la gestione di questa proroga non è semplice. Bene. Quindi diciamo che intanto comune per comune dove abitate sul sole scoprite qualcosa di più, scoprite sì, esatto. Cosa vi aspetta? E poi attenzione alla prima casa, perché poi se il comune non delibera c'è un rinvio di un tipo annunciato per le seconde case, gli altri immobili, e uno per le prime case, quindi attenzione a non fare confusione. Però no, invece tu parlavi di complotti, di cose un po' oscure interne, io ti voglio parlare del DURC interno. Oh. Tu no, sottovalutavi, stamattina sono sicuro sei andato al lavoro sottovalutando l'impatto del DURC interno. Sì, sì. E invece guarda, se tu arrivi a pagina 40 del Sole 24 ore di oggi scopri delle cose interessanti, perché hai il DURC, che è una sigla che sta per documento unico di regolarità contributiva, e adesso l'INPS ha cominciato praticamente a mandare delle lettere in cui dice: cara azienda, noi ci risulta che tu non stai in regola con i contributi, e allora o ti metti in regola rapidamente oppure ti togliamo i benefici a cui hai avuto accesso, benefici appunto relativi ai contributi. Tutto questo nell'ambito del DURC interno, che tu ignoravi naturalmente. Ma adesso non più, e quindi sei un uomo più informato e anche più felice, mi verrebbe da dire. Assolutamente. Ancorché con i quotidiani che sono moribondi, mi pareva di cogliere prima che... Parola di Casaleggio, io non lo so. Vabbè, fa sempre piacere. Ti voglio anche dire che arriverà un decreto crescita, un secondo decreto crescita, lo spieghiamo, lo annuncia Carmine Fottina, sempre sul Sole 24 ore di oggi, lo stanno preparando, diciamo il pacchetto di aiuti per le imprese però in senso abbastanza ampio, quindi si intendono anche piccole imprese, piccolissime imprese. Dovrebbe arrivare a giugno, così come a giugno, attenzione, ci sarà la pagellina della UE sui nostri progetti di riforma, e noi anticipiamo già un po' come la pensano i professori, insomma siamo deboli nelle solite materie, insomma tu andavi bene in matematica, per dire, o avevi problemi, io avevo sempre... un rapporto travagliato, ecco, noi come italiani abbiamo un rapporto travagliato con le riforme della giustizia civile, guarda un po', e le liberalizzazioni, ma questo è un tema che specialmente a Milano in questi giorni, la liberalizzazione, certo, servizi liberalizzati, sta facendo discutere. Ebbene. E poi il post degli avvocati, attenzione perché gli avvocati hanno diffuso una serie di indicazioni per l'obbligo di dotarsi di POS, che loro sostengono, attenzione, non è un obbligo vero e proprio, da giugno, per consentire al cliente di pagare appunto con il bancomat, ad esempio. Ottimo, tutto questo sul Sole, caro Mauro. Naturalmente, e a questo punto solo una parola. Sì. Traffico. Alessandro Mingan ti mette le ali. È l'ora della pazzia, va bene. Allora, il ministro all'economia Padoan fa un'intervista all'Unità, è l'apertura sul lavoro svolta in Europa, inizia proprio così questo colloquio del ministro dell'economia, che dice nell'intervista: come convincerei un disoccupato ad andare a votare alle europee? Gli direi che ha ragione a essere preoccupato e spesso disperato, gli direi di aspettarsi di più dalla politica, gli direi che la politica che oggi il governo vede nell'occupazione e nella crescita la priorità numero uno, deve diventarlo anche in Europa. Chissà se dopo questo appello il disoccupato italiano voterà. Comunque, riguardo alla crescita, la stima è confermata, crescita 0,8%, non è cambiata perché non ci sono informazioni tali da rivedere le stime, nonostante lo 0,1 in meno di crescita del PIL italiano nel primo trimestre 2014. E ancora in questa lunga intervista il ministro Padoan dice sul salario minimo, per esempio, può essere un'ottima misura, ma dipende dal livello in cui si fissa e in quale contesto si introduce. Può essere una misura per combattere la povertà, per dare un segnale all'andamento dei salari superiore al minimo. Ci sono situazioni in cui funziona bene, altre in cui non funziona. Si potrebbe discutere, ma andrebbe collocato in una riconsiderazione generale del contratto di lavoro. Questo il ministro Padoan, ovviamente tratta tanti altri temi economici in prima pagina dell'Unità. Mentre ancora l'immigrazione è sulle prime pagine, soprattutto per questo sbarco, questo arrivo, la nostra marina militare ha tratto in salvo una carretta del mare che viene messa in prima pagina, è tutta colorata, ma di colore c'è poco in quelle storie, è gialla, rossa, verde, una carretta che trasportava solamente bambini. Quando la marina militare si è trovata di fronte a questa vicenda, immaginate lo stupore, come racconta in una pagina Laura Anello, a pagina 12 sulla Stampa, l'odissea dei bambini sul barcone alla deriva. Tante testoline bionde, oscure, una accanto all'altra su un barcone squassato dal mare in tempesta. Quando l'hanno visto, gli uomini della marina hanno quasi creduto che fosse un abbaglio. Invece erano proprio bambini, quelli stretti l'uno all'altro sul barcone in avaria, trascinato da un'altra carretta che procedeva a fatica tra le onde a sud di Capo Passero. Molti sono stati affidati dai genitori che avevano un solo posto e l'hanno dato ai figli, con un dramma di separazione immaginato al momento dell'imbarco sulle coste. Tra l'altro Mario Calabresi, direttore della Stampa, mette questo commento in prima pagina. Il titolo è «Un ponte di cui essere orgogliosi». Parlare di immigrati, scrive Calabresi, ormai è diventato difficilissimo, nessuna pazienza di ascoltare, i più moderati restano in silenzio, gli altri o invitano a rispedire ogni barca a destinazione o a girare la testa dall'altra parte. La questione è trattata solo in termini economici, prima ci si preoccupa dei costi di salvataggio e accoglienza, poi della minaccia che rappresentano per la sicurezza il nostro già disastrato mercato del lavoro. Poi leggi il racconto di quella madre che è riuscita a tenere a galla per un'ora il figlio di 8 anni prima di morire all'arrivo dei soccorsi e senti che qualcosa non funziona più dentro e fuori di noi. O guardi la foto qui accanto, pubblicata, e scopri che su questa barca verde, rossa, gialla, alla deriva, ci sono 133 bambini che ieri sera sono stati asciugati, rifocillati e hanno dormito sotto una coperta grazie alla Marina Militare Italiana che li ha salvati. Sono siriani in fuga dalla guerra coi loro genitori. L'operazione Mare Nostrum ne ha salvati 30.000 da ottobre a oggi. Il nostro sport nazionale ripete ad alta voce che l'Italia fa schifo, che non c'è niente da difendere, che siamo perduti. Mi attirerò una bella dose di critiche, continua e conclude Calabresi, ma ho voglia di dire che sono orgoglioso di appartenere a una nazione che manda i militari a salvare le famiglie e non a sparargli addosso. E beh, c'è anche un'intervista al capitano della Grecale Stefano Frumento, 41 anni, rischiavano tutti la vita, dovevamo salvarli, il racconto di come hanno salvato questi bambini. Andiamo di fretta per dire solo una notizia curiosa, giusto per farvi strappare un sorriso di invidia, o un ghigno satanico di invidia. Sappiate, care donne, che Yelena Ribolovlieva si è separata dal magnate russo Dmitry Ribolovlev e ha ottenuto una liquidazione di 32, solamente 3,2 miliardi di euro. Veronica Lario impazzisce di rosica di invidia. Lei che si deve accontentare di 46.000 euro al giorno. 3,2 miliardi di euro, una pagina del Corriere, Elena, i divorzi da favola, l'ex moglie dei magnati sono le nuove milionarie, effettivamente. Ma siamo al momento conclusivo, quello dell'articolo più inutile scovato sui giornali, il momento della carta costa, e oggi vince il giornale che si consolida in testa alla classifica con Gianluca Grossi, una intera pagina per una ricerca scientifica, perché l'anima gemella si sceglie con un bacio. Hanno analizzato il DNA delle persone sposate, la saliva delle persone sposate, per dire, c'è affinità di DNA. Vi siete sposati perché vi siete sputati in bocca, mamma mia, per il giornale, eh? Una pagina e la carta costa, e andiamo avanti così, facciamoci del male. 24 mattino. Siamo qui alle 8:17 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, cari ascoltatori. Allora, ieri è stato arrestato, e dagli arresti domiciliari, il presidente del Consiglio regionale della Campania, Paolo Romano, è accusato in pratica di aver abusato della sua qualità pubblica per esercitare minacce e pressioni nei confronti del direttore generale dell'ASL di Caserta per nominare il direttore sanitario amministrativo al vertice del distretto sanitario di Capua. Allora, al di là della vicenda, al di là, se volete, anche delle considerazioni politiche, perché Romano è candidato, e siamo tutti garantisti, è candidato alle europee per il nuovo centrodestra, e quindi oggi si parla anche dell'opportunità, ma come, dovrebbe ritirarsi oppure no. Ma quello che mi ci interessa affrontare in questo scampo di trasmissione è la questione, appunto, dei rapporti tra i manager della pubblica amministrazione e la politica. Oggi il ministro alla pubblica amministrazione Madia fa un intervento su Il Messaggero, nel quale scrive: pensare alla riforma della dirigenza pubblica significa interrogarsi su quale modello si vuole costruire, un modello basato su una dirigenza di ruolo formata negli anni con importanti investimenti pubblici, oppure un modello spoil system che affida alla politica la responsabilità di individuare le professionalità migliori. Noi abbiamo deciso di investire sulla dirigenza di ruolo selezionata per concorso. Speriamo, perché il dato di fatto, cari ascoltatori, è che finché i manager, tutti anche della sanità, sono nominati dalla politica, rispondono alla politica, alle logiche della politica, e infatti di queste inchieste ne sono piene i giornali, perché tra le logiche della politica c'è anche quella di cercare e ottenere il consenso, magari creando anche come dire, posti di lavoro per avere in cambio voti. Ne discutiamo con l'ex ministro della salute Renato Balduzzi, che saluto, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Balduzzi, è deputato di Scelta Civica. Oggi saluto anche Fabio Tonaccio, giornalista di Repubblica, insieme a Michele Bocci ha scritto il libro La Mangiatoia, su tutti gli sprechi nella sanità. Buongiorno Fabio e ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Allora, intanto, onorevole Balduzzi, sarebbe semplice poter dire perché la politica deve continuare a nominare i manager. Lei è d'accordo che se vengono nominati dalla politica rispondono a logiche politiche che, per carità, non sono di per sé sempre negative, ma a volte sì? Beh, in realtà non è così, o non dovrebbe essere così, e abbiamo in giro per l'Italia tante situazioni dove il sistema funziona secondo la sua logica, perché la logica del sistema è di responsabilizzare, per quanto riguarda i vertici, e stiamo parlando dei direttori generali, non stiamo parlando neanche dei direttori sanitari, dei direttori amministrativi, e meno che mai dei primari, dei capi di dipartimento, i vertici delle ASL, cioè quelli che gestiscono l'80% dei bilanci della regione. La logica del sistema è che, siccome la regione può dare gli obiettivi, anzi deve dare gli obiettivi, deve verificarli, ha una nomina fiduciaria, cioè in ordine a quell'azienda io, regione, metto rossi piuttosto che bianchi, perché quegli obiettivi che l'azienda deve perseguire in termini di salute li può perseguire meglio rossi e bianchi. Lo devo fare con trasparenza, lo devo fare pubblicando tutto quanto, abbiamo messo delle norme nella riforma del 2012 che danno trasparenza e tutto, e io finisco lì, però, cioè non è che poi posso revocarmeli a piacimento. Però, professor Balduzzi, quante inchieste ci sono state di primari invece scelti perché te lo segnalo, perché quello, perché allora piazziamo uno lì, uno là, uno su, uno giù, perché poi finisce così. No? I malandrini esistono sicuramente, però le regole devono cercare di evitare questo. Noi abbiamo messo delle nuove regole dal 2012 che per i primari questa cosa qui non dovrà più succedere. Quindi da questo punto di vista non siamo dentro esattamente al modello della professionalità indipendente assunta attraverso dei procedimenti regolari. Ripeto, sono due cose diverse. Un conto è il direttore generale, che è l'unica figura fiduciaria, no? Nominata dalla politica, perché poi tutte le altre sono nominate secondo procedimenti diversi. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo è nominato dal direttore generale con provvedimento motivato. Allora è chiaro che la cattiva politica può dire: va bene, facciamo un pacchetto unico, ce la spartiamo. E questo è qualche cosa che, e infatti la novità di questi giorni è proprio che viene a toccare un elemento che è rimasto opaco, no? Perché le regole sono chiare. Chi nomina il direttore sanitario? Il direttore amministrativo e il direttore generale, che deve fare con provvedimento motivato. È evidente che è una responsabilità sua, su cui risponde, nel senso che se nomina uno che non va bene, poi ne va di mezzo anche lui quando la regione lo verifica sui risultati. Lei sulla figura, quindi mi faccia capire, sulla figura apicale, il direttore generale lei rivendica anche, visto che ha un indirizzo politico legato alla regione e risponde politicamente alla regione, non è assolutamente sbagliato che sia anche una nomina di tipo politico. Ma questo perché non avrebbe alcun senso, per come è organizzata la sanità nel nostro paese, poi la si può organizzare anche in maniera diversa, ma non avrebbe molto senso avere come direttori generali, diciamo, degli impiegati, no? Dei dirigenti secondo un concorso, perché ciò che si chiede dai direttori generali è molto di diverso, qualcosa di diverso da quello che si può chiedere da una persona no, preposta attraverso un concorso, perché il tipo di rapporto con chi risponde, chi è che risponde di sanità? Risponde la regione, a chi risponde? A noi cittadini elettori. E questo è il modello. Questo certamente. Allora, Fabio Tonacci, ovviamente nel vostro libro tu e Michele Bocci avete raccontate, visto che il titolo è La Mangiatoia, ne abbiamo già parlato, il sottotitolo è Perché la sanità è diventata il più grande affare d'Italia, come ci ha detto l'ex ministro Balduzzi, l'80% del budget regionale va lì, va a finire proprio in questo campo, la sanità. Stupisce, Fabio, questa vicenda e questa inchiesta della campagna, e per carità vedremo come si evolve, o non stupisce anche dal punto di vista di un già visto, un déjà vu? Ma io personalmente ritengo che può stupire chi fino ad oggi ha vissuto su Marte. Allora sì, uno si stupisce che nella sanità succedano queste cose, ma io voglio ricordare un fatto: gli ultimi quattro politici, diciamo, alti vertici dello Stato che si sono dimessi in Italia, e parlo dell'ex ministro Nunzio De Girolamo, parlo di Antonio Mastrapasqua, ex presidente dell'INPS, parlo del sottosegretario Gentile, questo per fare soltanto tre esempi, il sottosegretario Gentile, sono tutti incappati in questioni di sanità. E questo non è un caso, cioè io capisco benissimo quello che sta dicendo l'onorevole Balduzzi, tanto è che lui, non più tardi di 2 anni fa, quando era ministro, ha provato a mettere mano a quella spinosa questione del controllo della politica sulla sanità. Però Balduzzi si ricorderà sicuramente che quando nel suo decreto ha provato a toccare alcuni meccanismi, a toccarli in profondità, ad esempio uno su tutti, a mettere un tetto di età 65 anni alla nomina dei dirigenti, dei direttori generali, quando poi questo testo è finito in Parlamento, quella norma, il tetto da 65 anni è sparita, sì, quando è finito in Parlamento. Oppure il meccanismo che ha messo in piedi per cercare, diciamo, di limitare la nomina politica sui primari, ad esempio, è stata istituita la commissione per cui viene scelto il primario viene scelto in base alla commissione di 3 persone, uno è il direttore sanitario, 2 sono altri direttori di UOC, quindi altri primari. Poi alla fine dei fatti, queste le notizie di inchiesta che vediamo oggi, sì, ci raccontano che non basta. Il discorso della nomina politica del direttore generale è figlia degli anni 90, sì, era il periodo di Tangentopoli, si usciva da quello, la prima grande riforma della sanità è quella degli anni 90, 92, 93, è quella di De Lorenzo, c'era l'esigenza, come diceva appunto Balduzzi, di responsabilizzare l'azienda sanitaria, per cui si trasforma l'ospedale, l'azienda ospedaliera si trasforma con logiche aziendali, per cui appunto il direttore generale diventa un... Infatti è questo punto che non si capisce come, perché onorevole Balduzzi, gestendo soldi pubblici, sono tanti, intanto vuol rispondere a Tonacci che dice lei da Ministro della Salute ha avuto in realtà tutte queste difficoltà quando ha voluto provare a modificare alcune cose, conferma? Confermo e non confermo, nel senso che la norma sui primari l'abbiamo fatta, non sono 3, sono 4 i componenti della commissione, 3 sono sorteggiati, 1 è il direttore sanitario, mentre prima era una commissione, diciamo, tutta interna in qualche modo all'azienda e quindi molto più... se si vuole, influenzabile, no? Mentre adesso la nomina dei primari, direttori di struttura complessa, come la legge li chiama, ma noi abbiamo giustamente continuato a chiamarli primari, che sono un po' l'ossatura della parte professionale dei nostri ospedali, avverrà, adesso forse abbiamo ancora qualche, diciamo, residuo di vecchie pratiche, no? Avverrà secondo i principi della competenza e del merito, e questa cosa era nel decreto legge ed è stata convertita in legge dal Parlamento, non è stata convertita la norma sui 65 anni, però ecco, da questo, no, a dire che io ho tentato e poi non sono riuscito, forse non è proprio così. Il nucleo di quella norma era come nominiamo i primari. Però io continuo, lei appunto sostiene questo legame con la politica per la nomina dei direttori generali, io invece penso che gestendo soldi pubblici, perché non possono essere davvero scelti in base alle eccellenze, in base alla formazione ovviamente di scuole, di formazione per dirigenti e poi in base a concorsi trasparenti? Cioè perché ci deve essere... Devono essere scelti in base a trasparenza e eccellenza. Il metodo del concorso, come tutti i metodi, anche il metodo del concorso è una forte volontà di ingerenza, di cattiva politica nella sanità, anche il metodo del concorso, perché poi qualcuno alla fine dovrà valutare, no? Cioè chi è che valuta se Rossi è capace a fare il direttore generale, che non è una cosa che sono capaci tutti gli italiani, no? È una cosa per cui ci vuole veramente una professionalità, tant'è vero che poi c'è un bacino di fatto, no? Abbiamo un bacino di persone che sono professionalmente direttori generali, sanno cos'è quella cosa molto articolata che è la sanità e possono farlo bene. È chiaro. Ma chi se non una nomina fiduciaria, chi lo nominerebbe? Finirebbe per essere nominato inevitabilmente o da questa o quella corporazione o da questo o quel gruppetto, perché qualcuno lo deve nominare. Certo, questo sì, però se lo nomina la politica, lei non crede che sia più, uso questo aggettivo, ricattabile, comunque più sottoponibile a pressioni del tipo: senti caro Rossi, ti ho messo io lì direttore generale di questa ASL, quindi siccome adesso devi scegliere il primario, a me piacerebbe che tu scegliessi questo qui di primario e invece non quello là. Il suo ragionamento non fa una grinza, ma la risposta è: va bene, vuol dire che il direttore generale dovrà essere più capace di resistere a pressioni quando queste avvengano. E la vicenda di questi giorni è emblematica proprio perché racconta quello che lei sta... il direttore generale infatti ha denunciato le pressioni, cioè diventa il testimone, insomma, dice: ho subito pressioni dal è molto importante perché, ripeto, questa dei direttori sanitari e direttori amministrativi era rimasta un po' una zona opaca del sistema, no? Nel senso che le norme dicono una cosa, ma nei fatti si sa che poi alla fine per aggiustamenti, no? Ecco. E quindi è molto importante la vicenda, diciamo dal punto di vista generale, la vicenda di questi giorni, perché getta luce su qualche cosa che fa invece, cioè le regole, se dicono che il direttore sanitario e il direttore amministrativo è nominato con provvedimento motivato dal direttore generale, vanno rispettate. Non lo fai, sei passibile di responsabilità penale, che è quello che sta succedendo. Ma su questo infatti, allora, Fabio Tonacci, per tornare alla vicenda proprio concreta di ieri dell'arresto di Paolo Romano, ripeto, presidente del Consiglio regionale della Campania, in questo caso il direttore generale dell'ASL, Paolo Menduni, è il primo che si è trasformato in testimone d'accusa, cioè proprio ha fatto la denuncia che ha fatto partire, cioè ho subito queste pressioni dalla politica. Io vi chiedo, quanti Paolo Menduni però ci sono in Italia? Cioè quanti hanno il coraggio, la forza di denunciare pressioni del genere? Cioè non vi dimenticate che anche la questione dell'Expo, della corruzione dell'Expo, una parte importante di quell'inchiesta, che è la parte meno raccontata in realtà da noi, dai media, perché è quella, diciamo, appunto a cui più siamo abituati, cioè l'aspetto corruttivo con diverse ASL, riguarda anche quella la sanità. Cioè nel nostro libro, cioè, l'ultimo capitolo che noi scriviamo si intitola "In sanità la tangentopoli non è mai finita". Quindi io capisco il dottor Balducci che difende giustamente il proprio decreto, tutte le innovazioni che questo ha portato, però per esempio sulla nomina del direttore generale è stato inserito un albo di idonei, però ancora oggi, ancora ieri, la Lorenzini, il nuovo ministro della salute, rivendicava l'idea di dover eliminare questo rapporto con la politica creando un albo nazionale. Si sono creati degli albi regionali di idonei che a noi risulta essere espansi da un 10-15 nomi di idonei anche a 100-200-300 nomi di idonei, quindi diciamo questo è un modo per aggirare diciamo il primo ostacolo. Sì. Un'altra cosa, quando si vanno a nominare i primari è vero che c'è la commissione, sì, però alla fine l'ultima parola è del direttore generale, che se non nomina il primario scelto dalla commissione è questa la questione, deve comunque motivarlo. Questa è la questione, cioè tu dici il legame che si mantiene con la politica, il filo principale dalla testa con la politica è un filo che rischia in qualche modo di condizionare anche psicologicamente la scelta del direttore generale, o no Fabio? Questo è il... Pronto? Sì, eccoci Fabio. E questo sì, no, io ripeto la domanda con cui ho iniziato questo intervento: quanti Paolo Menduni ci sono nella sanità italiana hanno la forza di denunciare? Perché ricordiamoci le vicende che si sono viste nell'ultimo anno sulla sanità. Cioè, non credo che sia così che sia così semplice poi affidare tutto il sistema anti diciamo corruzione la capacità di un singolo che a un certo punto di reagire e in questo caso denunciare. Esatto. Allora facciamo così, io nel ringraziare l'onorevole Renato Balduzzi di Scelta Civica e ex ministro della salute e Fabio Tonacci, collega di Repubblica, che ha scritto con Michele Bocci il libro La Mangiatoia, vi rinnovo il numero di telefono, anzi non l'ho ancora detto, 800 24 00 24 per intervenire in diretta, cari ascoltatori, e proprio dalle vostre telefonate ripartiremo tra poco dopo la pubblicità. Avremo ospite anche poi alle 8.45 il sindaco di Torino Piero Fassino, che è anche il presidente dell'ANCI, su questa vicenda molto intricata e complicata della TASI, le tasse che dovete pagare, che dobbiamo pagare, ma quando si pagano non è detto ancora bene la data precisa. 24 allora la sanità pubblica, l'ultima vicenda della Campania, e vorrei sentire qualche parere di ascoltatore, a cominciare da Daniele da Lucca. Buongiorno Daniele, eccoci. Buongiorno, no, semplicemente per dire che nonostante le parole dell'ex ministro tra virgolette imbonitore Balduzzi, la sanità non funziona e non potrà mai funzionare. La sanità pubblica addirittura. Io lavoro, non le dico dove, perché potrei anche essere licenziato da questi signori che sono stati messi a regnare sulle ASLE, e vedo tutti i giorni buttare via migliaia di euro di roba scaduta così, sì, inutilmente. Se uno fa presente che c'è uno spreco, ti guardano anche male, quindi... Questo però, Daniele mi scusi, questo è più una inefficienza amministrativa, cioè di chi gestisce... Sì, guardi, scusi, è inefficienza anche dei primari e dei coordinatori infermieristici che sono nominati dai direttori generali. È una piramide che ha tutti i suoi, Però a me interessa capire, ma lei vede anche che queste nomine sono legate alla politica, cioè si coglie... Sì, sono legate alla politica perché dove lavoro io, che non faccio parte del coro, nonostante io abbia attestati tante cose, anni che mi do da fare, sono stato sempre messo da parte perché non faccio parte del coro principale, ha capito? E quindi sono tutti politicizzati, primari, tutta gente che meglio non parlarne. Il direttore generale, il mio attuale, io non ho ancora visto la sua faccia, nonostante sia 4-5 anni che è stato nominato. Sì. Non ha il coraggio o il rispetto dei lavoratori di scendere in trincea, a metterci la faccia e a dire: sono io il direttore generale, c'è qualche bisogno, c'è qualcosa. Insomma, mi sembra molto molto pessimistico come scenario che ci ha detto. Grazie Daniele, vorrei andare a Roma da Andrea. Buongiorno. Dica. È commovente quello che dice l'ex ministro Balduzzi, perché corrisponde a una speranza che noi italiani spesso siamo riluttanti a cedere. Dare alla politica la discrezionalità sulla spesa e sulla nomina è come dare i colori a dei ragazzini di 5 anni e poi raccontarsi che abbiamo scritto una legge che gli vieta di sporcare. La politica, nell'istante in cui ha discrezionalità di spesa, ha la precondizione della corruzione. Cioè di nomina, più che di spesa, di nomina. Cioè di nomina solo del direttore generale, solo della figura apicale dell'ASL. Sì, ma voglio dire, non servono giuristi, non serve la brava ministro Madia che lo scriva, sono 3.000 anni che ci si esercita su questo argomento, abbiamo i papiri degli Egizi che spiegano come si nominano gli amministratori pubblici, o per concorso o rispondono all'elettorato. La terza via non esiste. Nell'istante in cui si consegna a una persona che ha un'autorità politica la discrezionalità di nominare e spendere soldi direttamente, sì, il secondo che viene nominato è corrotto, non è il primo, è il secondo. Insomma, Andrea, la ringrazio. Allora, intanto facciamo così, se ci sono spazio per altri ascoltatori tra poco li recupereremo, però io voglio salutare, dopo le informazioni sul traffico ci concentreremo su questa vicenda della Tasi, perché riguarda tutti gli italiani, milioni di italiani che vogliono cercare di capire come devono pagare, il sindaco di Torino, non che presidente dell'ANCI, quindi dei comuni italiani, Piero Fassino. Buongiorno, buongiorno sindaco, eccoci qua. Buongiorno. Eccoci qui. Allora, oggi il Sole 24 Ore pubblica l'elenco dei 1.000 comuni dove si paga subito la Tasi, cioè subito il 16 giugno. Sono quei comuni che hanno deliberato entro il 23 maggio, deliberano entro dopodomani in pratica. Intanto, sindaco Fassino, perché non tutti i comuni si sono allineati? Cioè, con chi ce la dobbiamo prendere? Perché quest'anno, come è noto, ci sono le elezioni amministrative che toccano migliaia e migliaia e migliaia di comuni, e tutti questi comuni hanno sciolto i consigli comunali all'inizio di marzo, come da legge, e tutte le disposizioni relative all'applicazione della Tasi il Parlamento le ha approvate in fase successiva. E quindi non era possibile tecnicamente era possibile riconvocare i consigli in seduta straordinaria, ma insomma capiamo tutti che poi in periodo elettorale sesto è sempre molto molto difficile. Senta, lei, quindi quelli che hanno approvato le aliquote pagheranno, e tra questi ci sono tutte le grandi città, da Torino a Milano a Bologna a Venezia, che tutte città che non andavano al voto, quindi il Consiglio Comunale ha potuto riunirsi e deliberare. Quelli, i contribuenti delle città che hanno deliberato pagheranno, come la legge già prevedeva, regolarmente il 16 giugno. I cittadini dei comuni in cui non si sono deliberate le aliquote pagheranno il 16 ottobre, con aliquote che i comuni devono determinare entro il 31 giugno, tempo in cui si sono insediati i nuovi consiglieri. Lei mi ha detto, scusi, la data 16 ottobre, cioè perché si parla di settembre, invece è stato deciso quindi al 16 ottobre. Quello che è stato convenuto con il Ministero dell'Economia il 16 ottobre, perché il 16 settembre era molto ravvicinato rispetto alla scadenza del 31 luglio come data ultima per la determinazione dell'aliquote, poi in mezzo c'è agosto, eccetera, eccetera. Quindi mi pare che il 16 ottobre sia più congruo. Sì, ci si orienterà così. Sa che alcune associazioni di consumatori, tra cui il Codacons, dice è tutto incostituzionale perché si discrimina i cittadini, cioè alcuni pagano prima, alcuni pagano no. Posso dire che francamente siamo un paese ammalato proprio di contenziosi e di ricorsi. Si è trovata una soluzione ragionevole di buon senso, ma è possibile che per una volta non si possa far prevalere il buon senso e invece ci sia soltanto, come dire, il tarlo del ricorso da qualche parte? Lei ha chiesto anche che il governo anticipi comunque i soldi per quei comuni che non li possono incassare. Conferma questa linea? Anche questa non è una novità. Ogni volta è già accaduto. In questi anni, ogni volta che un tributo che è previsto essere pagato con una certa scadenza viene prorogato, è evidente che si fa ricorso a un'anticipazione, perché sennò il soggetto che dovrebbe percepire il tributo si troverebbe in una crisi di liquidità. Sì, no. Quindi questo vale per i comuni che devono prorogare, gli si anticipa la somma, lo Stato anticipa la somma e poi i comuni la restituiranno. No, ma è chiaro, anche perché i comuni erogano dei servizi, però siccome la Tasi vale 4 miliardi in totale, possiamo identificare a metà i comuni, quindi sui 2 miliardi che il governo al 16 giugno deve anticipare agli enti locali? Se mi è permesso, anche per questo si è scelto di non fare la proroga per tutti, la proroga solo per quelli che non avevano deliberato, perché se si fosse fatta la proroga per tutti, anche per coloro che avevano deliberato, il costo dell'anticipazione per lo Stato sarebbe stato molto più grande. Quindi lo dico a chi vuole fare ricorso, invoca incostituzionalità, il fatto di aver fatto un doppio regime è per governare meglio flussi finanziari che sappiamo essere critici comunque per tutti, per i comuni come per lo Però Stato. Questi soldi lo Stato da dove li può anticipare, secondo lei? Perché ovviamente dalle proprie casse, non è che lo Stato non è privo di soldi, naturalmente, intendiamoci, se no come paga gli stipendi tutti i mesi i propri dipendenti, come fa funzionare la macchina dello Stato. Ma su questo, sindaco, Fassino, c'è accordo col Ministero dell'Economia o c'è? Certo che c'è accordo. Quindi verranno anticipati, questi soldi. L'altra domanda che si pongono gli italiani è questa: ma non è che con questa TASI pagheremo più dell'IMU, della vecchia IMU? Ma guardi, su questo fanno testo le aliquote. L'IMU sulla prima casa aveva un'aliquota minima del 4 per 1000, che in tutti i comuni grandi, tutti i capoluoghi di provincia, era assestata su tra il 5 e il 6. E adesso l'aliquota massima della TASI è il 2,5 per 1000 e può essere localmente incrementata al massimo dello, fino a 1,08, quindi pigliamo l'ipotesi massima, fa 3,3 sì, contro una media che era almeno 4 e in molti comuni era già 5-6 per 1000. A Torino come? Che sulla prima casa si spende di meno. A Torino dove l'avete fissata? A 3,3 e noi ce l'avevamo a 5,75, quindi qualsiasi contribuente di Torino sulla prima casa paga un 2 per 1000 in meno rispetto a prima. Senta, sindaco, le faccio questa domanda da presidente dell'ANCI, non so se ha visto quello che è successo a Pomezia in provincia di Roma, dove il sindaco del Movimento 5 Stelle ha deciso dall'anno prossimo di diversificare il costo delle mense per i genitori che pagano 4 euro, i bimbi non prenderanno il dolce a scuola, quelli che pagheranno 4,44 euro, quindi 44 centesimi in più, avranno diritto al dolce nelle mense scolastiche. Le pare una scelta opportuna o una follia, insomma? Ma io penso che sia corretto, diciamo, distinguere le rette anche tenendo conto della tariffa, tenendo conto del reddito delle famiglie, quindi una retta che diciamo sia superiore per le famiglie a reddito medio-alto e più bassa per le famiglie a reddito medio-basso, in tutte le città già questo criterio si applica anche da noi a Torino. Invece selezionare e distinguere quello che si dà a un bambino, dare a un bambino il dolce e l'altro non darglielo, a me sembra francamente una cosa poco, diciamo, poco convincente, perché se devi selezionare, seleziona sulla tariffa, non su ciò che eroga i bambini. Certo, però lì, anche per non esporre i bambini alla stupida e anche un po' avvilente situazione che seduti allo stesso tavolo c'è chi riceve il dolce e chi non lo riceve. Questo sì, insomma, però in realtà un po' di buon senso. Questo però in realtà risponde appunto a una tariffa diversa, cioè chi paga di più ottiene. Vabbè, ma basta farlo sulla tariffa questa selezione, scusi. Come lo si fa in tutti i comuni, a Torino, a Milano, a Roma, a Bologna, a Venezia, a Firenze, dovunque le tariffe degli asili sono, diciamo, differenziate sulla base del reddito della famiglia. Non vedo francamente, ma non come erogazione, introdurre la selezione del dolce, che francamente mi pare ridicolo. Va bene, e ripeto, umiliante per i bambini. E questo certamente la penso anch'io così. Le chiedo, visto che lei ha fatto tante campagne elettorali, che ne pensa di questa campagna elettorale? Ha sentito il livello del dibattito? Le piace, Fassino? Ma io sono abituato a campagne elettorali in cui si cerca di mettere in campo delle idee, si prova a capire quali sono le idee degli altri e si prova a sviluppare un confronto. Non sono abituato a campagne elettorali in cui l'insulto è il dato prevalente. E francamente mi pare evidente che questa è una campagna elettorale in cui c'è qualcuno che tutti i giorni chiede un voto in nome di, usando un unico argomento, l'insulto e l'offesa verso gli questo altri. Questo certamente. Francamente, allora, non mi pare un bel modo per fare. Allora, io nel salutarla e ringraziarla, mi faccia chiedere se lei da juventino è più contento per il Torino fuori dall'Europa o da sindaco le dispiace che con i tifosi del Torino ha avuto qualche... A me dispiace perché dispiace. Sia come appassionato di calcio che tifa sempre perché le squadre italiane riescano ad avere successo, sia da torinese e da sindaco di Torino che deve essere attento ai successi naturalmente di tutte e due le squadre, mi dispiace, mi sarei perché augurato che avesse potuto partecipare alla UEFA. Perché ha avuto qualche dissidio, no? Non con i tifosi della Gheranza, ma con un gruppetto di esagitati che non aveva credito. Insomma, comunque è dispiaciuto del Torino fuori dall'Europa, a parte che forse potrebbe anche rientrarci, visto che il Parma ha dei problemi. Lei spera. La ringrazio intanto, grazie a Piero Fassino, sindaco di Torino e presidente dell'ANCI. Voglio concludere recuperando un ascoltatore sulla questione sanità, Luigi da Roma. Luigi, buongiorno. Buongiorno, non è sulla sanità. È sulla casa. Dica, meglio ancora, dica Luigi. Allora, il mio problema è questo. Io vivo con mia moglie, in una casa intestata a lei e ho sempre pagato l'IMU. Poi 18 anni fa ho acquistato una casa per mia figlia, dove lei abita praticamente e dimora lì in questa casa, e io devo pagare, questa è casa, questa, la seconda casa intestata a me, devo pagare l'IMU come seconda casa all'11 qualcosa per cento su 40 e lei dice è troppo, cioè lei contesta il fatto di pagare in sé, ma cioè andrebbe tolto anche sulla seconda casa o che è troppo? No, il problema è questo, io voglio pagare l'IMU, ma no, assolutamente, però mi sembra una cosa eccessiva, su 48 metri quadri un reddito catastale 520 euro, va bene, devo pagare, l'anno scorso ho pagato 960 euro. Caro Luigi, no, ma io posso capire, insomma, posso capire, l'accolgo come sfogo, insomma, il suo con cui concludiamo questa trasmissione e la ringrazio, mi dispiace, insomma, se la deve prendere un po' con gli amministratori e con chi fissa queste cifre. Grazie Luigi, saluto Miriam Lucchetti, Alessandro Marco Tugli ed Elisabetta Fusconi in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia, potete scriverci, 24mattino@radio24.it è la mail, il mio profilo Twitter Alino Milan. A domani 6:30.